Salva Danaio di Deborah Rosciani. E buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. È possibile mangiare meglio consumando solo prodotti biologici, spendendo lo stesso o forse anche meno di chi fa una spesa tradizionale? A qualcuno sembrerà un'impresa impossibile, eppure un esperimento legato ad un osservatorio dell'Università Bocconi di Milano sta verificando che potrebbe non essere ormai una prospettiva così lontana dalla realtà. Pensiamo a quante volte facciamo la spesa di fretta al supermercato senza soffermarci troppo sulla qualità e scegliendo tra i prezzi che ci vengono proposti dalla grande distribuzione, e a chi invece fa una scelta diversa, ci mette pazienza e si muove tra mercati rionali, aziende agricole, punti vendita specializzati e anche gruppi d'acquisto. L'acquisto dei prodotti biologici, questo è un dato di fatto, si muove in controtendenza rispetto al carrello della spesa, che si alleggerisce sempre di più. Secondo una recente analisi della Coldiretti, nel primo semestre di quest'anno i prodotti confezionati registrano in questo settore un aumento del 9%. Più della metà degli italiani ha acquistato almeno una volta un prodotto biologico nell'ultimo anno. Salva Danaio stamattina approfondisce questa tendenza raccogliendo i racconti, come sempre, le testimonianze e le esperienze degli ascoltatori. Potete chiamarci come fate sempre all'800 24 00 24 e metteremo a confronto le vostre scelte con le indicazioni degli esperti del Bio Management Lab, osservatorio di SDA Bocconi di Milano, che ha proprio l'obiettivo di capire se quella del biologico si possa ancora definire una nicchia. Vi presento allora i nostri ospiti e soprattutto chi sta portando avanti questa operazione con l'Università Bocconi di Milano. Saluto e ringrazio per essere con noi, perché ci fa particolarmente piacere, Tessa Gelisio, giornalista, conduttrice di molti programmi televisivi seguitissimi, opinion leader per questo esperimento dell'Università Bocconi. Tessa, buongiorno e grazie di essere a Salva Danaio. Ci senti? Non l'abbiamo? Ecco qua, io l'avevo lanciata così con grande fervore e con grande entusiasmo, ma siamo pronti appunto a recuperare la telefonata con Tessa Gelisio. Ma saluto anche chi direttamente appunto sta conducendo questo esperimento, oltre ad essere testimonial e lo naturalmente anche dal punto di vista scientifico analizza. Ringrazio e saluto il professor Vitaliano Fiorillo, coordinatore Biomanagement Lab di SDA Bocconi. Professor Fiorillo, buongiorno. Buongiorno. Da qui in avanti la descriverò solamente come coordinatore di questo progetto, perché se devo dire per tutte le volte appunto tutta la sua carica ci metto un'ora, ma naturalmente adesso a parte la forma ci interessa la sostanza del suo lavoro. Saluto e ringrazio anche Paolo Carnemolla, presidente di Federbio, che è la Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica. Carnemolla, buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno, ci a lei e tutti gli ascoltatori. Eccoci qua, Tessa, ti abbiamo recuperato. Sì, eccomi qua, Deborah. Scusami, ma questi smartphone sono tremendi. Ecco, appunto, guarda, dobbiamo dirlo all'Apple, che ieri tra l'altro ha lanciato anche nuovi prodotti appunto tecnologici, ma a parte questo a noi ci interessa in realtà il cibo, ci interessa mangiare e mangiare bene, quindi dobbiamo ascoltarti al meglio, perché ci interessa capire come mai intanto ti sei fatta opinion leader di questo progetto. Non ci stupisce più di tanto, perché sappiamo bene che da sempre sei impegnata in prima fila nella divulgazione di tematiche sociali legate all'ambiente, sei un'esperta di comunicazione ambientale. Allora, prima di coinvolgervi nella nostra chiacchierata sul tema di questa mattina, ricordo ancora che i nostri ascoltatori possono intervenire in diretta chiamandoci all'800 24 00 24. Raccontateci se comprate biologico, quanto spendete per portare avanti questa scelta e dove la fate, al supermercato, al farmer market, al mercato rionale. Questo appunto è un tema molto interessante, la scelta che fate in termini di acquisti. Prima di tutto questo però, come sapete, un'occhiata alla giornata di borsa. Giornata molto vivace e naturalmente su Milano si sono concentrate le attenzioni, perché questa mattina il Tesoro italiano ha collocato 11 miliardi e mezzo di euro di titoli appunto con scadenza annuale, 8 miliardi e mezzo di bot annuali in particolar modo, perché gli altri 3 miliardi invece erano di bot flessibili, scadenza a 3 mesi, scadenza a dicembre. Abbiamo avuto naturalmente rendimenti su strade contrapposte, perché per il titolo a 12 mesi il tasso chiesto dal mercato è stato dell'1,34%, 2%, quindi in consistente crescita rispetto all'asta di un mese fa, quando il titolo aveva spuntato l'1,05%. Per il bot invece con scadenza trimestrale il tasso è sceso allo 0,50% dallo 0,59%. Quest'asta ha risentito di tutte le incertezze politiche che sono affiorate nelle ultime settimane. Lo spread fra BTP e Bund è a 251 punti base e anche oggi si mantiene questa separazione e questo sorpasso appunto rispetto alla Spagna, che invece ha una differenza di rendimento del suo bonus appunto decennale rispetto al Bund tedesco del 2,48%, quindi di 248 punti base. A Milano, che sta guadagnando lo 0,93% adesso in borsa, i titoli più acquistati: Mediaset più 3,23%, la Popolare di Milano più 2,80%, Unicredit più 2,58%, rimbalza di 2,5 punti Monte dei Paschi dopo due giornate molto difficili, Banco Popolare più 2,38%, Popolare dell'Emilia Romagna più 2,35%. In discesa invece ritroviamo STM meno 1,30%, Autogrill meno 0,5%, Telecom meno 0,40% insieme ad Eni. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di oggi. Comprare biologico è una scelta di nicchia o una scelta per tutti? Voglio andare a vivere in campagna, ah, ah. Voglio la rugiada che mi bagna, ah. Questa mattina abbiamo disturbato Toto Cutugni appunto per allietare dal punto di vista musicale l'introduzione del nostro programma, però io vorrei fare un'introduzione un po' più convincente per i nostri ascoltatori. Allora lo facciamo con una testimonial di questo progetto che viene portato avanti dall'Università Bocconi di Milano, Tessa Gelisio. Raccontaci un po', intanto, per te una scelta naturale quella di appoggiare questa iniziativa dell'Università appunto di Milano. In che cosa consisterà e soprattutto che tipo di monitoraggio farete nei confronti dei consumatori orientati al biologico? Sì, allora, l'osservatorio della Bocconi nasce per analizzare le dinamiche che guidano i modelli di business del biologico, che sono un po' diversi da quelli classici dell'agroalimentare. In particolar modo oggi stiamo parlando di un esperimento che è iniziato questa settimana, che coinvolge 3 famiglie. Allora, noi, siccome io mangio biologico da tantissimi anni, spesso mi sento dire che il biologico è cibo per ricchi, che sì, effettivamente il biologico tendenzialmente costa leggermente di più, ma non è sempre vero questo, nel senso bisogna capire dove si acquista e cosa si acquista. Quindi noi abbiamo preso 3 famiglie, una che fa la spesa tradizionale, quindi tendenzialmente, come la maggior parte, la media degli italiani, va direttamente nei grandi supermercati ad acquistare cibo non biologico. Un'altra famiglia invece mangia soltanto biologico, però in maniera pratica, quindi va al supermercato specializzato, nel negozio biologico sotto casa oppure nel supermercato tradizionale, dove ci sono sempre più prodotti biologici, però diciamo che utilizza i canali convenzionali di vendita. Poi invece c'è un'altra tipologia di famiglia che è sempre più numerosa, che è quella che acquista biologico ma sfruttando i vari canali, perché oggi c'è stata una grandissima apertura della filiera soprattutto nel biologico, quindi è possibile, non so, per esempio andare direttamente nelle aziende agricole a acquistare prodotti, andare nei mercatini rionali dove i produttori vendono direttamente, e questo permette, accorciando la filiera, di risparmiare. Noi quindi cosa vogliamo fare? Per 4 settimane, per un mese, analizziamo la spesa di queste famiglie, la modalità d'acquisto, e cerchiamo di capire se davvero è possibile mangiare biologico completamente, addirittura risparmiando rispetto a una famiglia tradizionale. Infatti, insomma, un'industria, tra virgolette, che negli ultimi anni ha vissuto anche questa, appunto, i suoi cambiamenti, molto contaminata, se vogliamo, da pregiudizio. In realtà i cambiamenti hanno portato anche molti più consumatori appunto a poter consumare queste produzioni di qualità e soprattutto a prezzi contenuti, come ci diceva Tessa. L'importante, come per tutte le cose, Tessa Gelisio, avere un po' di buona volontà, non soffermarsi solamente alla scelta che ci propone il supermercato sotto casa. Bravissima. Ieri, per esempio, ho acquistato zucchine e melanzane, perché sto facendo anch'io il mio esperimento in casa. Sono andata al supermercato e ho pagato le zucchine e le melanzane 2,98 euro zucchine, melanzane 3,98 euro al chilo. Poi sono andata sempre ieri, quindi nello stesso giorno, direttamente in un'azienda agricola e le ho pagate soltanto 2 euro. È ovvio che accorciando la filiera si risparmia. Certo, qua poi potrebbe contestare gli ascoltatori, perché sono sicura che in 2 secondi lo faranno, che comunque ti sei dovuta spostare, hai dovuto perdere un'oretta di tempo. Questa è la differenza, ecco qua. Assolutamente, se si vuole risparmiare e mangiare biologico, bisogna spendere un po' di tempo, quello sicuramente, ma è anche una caratteristica del nuovo consumatore biologico, quella di volere informarsi, di vedere come nascono i prodotti che mangia. E devo dirti che è un'esperienza bellissima, io visito spessissimo aziende agricole proprio per vedere come nascono i prodotti che poi acquisto. È una cosa estremamente formativa che mi permette di mangiare prodotti ottimi, perché poi bisogna anche considerare il sapore, i livelli nutrizionali. Certo. Cioè, voglio dire, quante volte troviamo, acquistiamo pomodori che non sanno assolutamente di nulla. Assolutamente. Guarda, Tessa, grazie per queste osservazioni. Ti chiediamo appunto di rimanere ancora un po' con noi per continuare a raccontarci anche i test che fai direttamente, appunto, perché non sei solo un testimonial passivo ma attivissimo. Vorrei però capire anche perché ancora questo mondo del biologico è, come dire, condizionato da questo pregiudizio, il fatto di essere un mondo di nicchia e ipercostoso. Professore Fiorillo, vengo da lei, appunto lei sta coordinando questo esperimento all'Università Bocconi. Il biologico secondo lei rimarrà per sempre una nicchia, oppure alla luce anche delle indicazioni pratiche che la stessa Tessa Gelisio ci ha dato poco fa, qualcosa sta cambiando, anche soprattutto nella filiera produttiva, si è avvicinata un po' di più al consumatore? Certamente sì, soprattutto il biologico ha portato, appunto come dicevate finora, dei cambiamenti. Il biologico è una nicchia di fatto, perché se pensate che peserà circa nel 2015 100 miliardi di euro nel panorama globale, contro i 5,7 triliardi di dollari del valore del mercato food and beverage globale, stiamo certamente parlando di una nicchia, ma quello che ci interessa, e questo è un po' il motivo per cui anche qui in Bocconi abbiamo iniziato a studiare questo fenomeno e a indagarlo, è il grande potenziale innovativo del biologico e questa grande forza propulsiva che ha in questo momento. Sta crescendo, continua a crescere, è anticiclico, cresce in un momento in cui la crisi si fa sentire, il carrello della spesa appunto si alleggerisce, invece abbiamo dei prodotti che normalmente sono collocati in fascia alta nel supermercato, per intenderci, che crescono, e questa cosa è piuttosto curiosa. I cambiamenti in atto sono sostanzialmente due i driver che stanno cambiando il volto della filiera. Da un lato la domanda di un consumatore più consapevole, un consumatore più informato grazie alle nuove tecnologie, grazie a internet, un consumatore coinvolto attivamente nella filiera, perché per lungo tempo nell'industria tradizionale il consumatore è sempre stato un pochino passivo e non poteva andare molto oltre le informazioni dello scaffale del supermercato piuttosto che dell'informazione commerciale in televisione. Adesso che le informazioni ci inseguono invece non dobbiamo più tanto cercare, forse appunto anche grazie a questo qualcosa sta cambiando, professor Fiorillo. Esattamente. Non abbiamo più la scusa di non essere informati, ecco. Esattamente. E dall'altro lato il consumatore non vuole neanche più scuse della grande industria, perché abbiamo visto molti brand perdere terreno a fronte di scandali, quelli che sono stati considerati scandali, che comunque hanno eroso la potenza dei grandi brand, e quindi il consumatore cerca un cibo più salubre, ma oltre a questo sta ricollocando il valore del cibo non nel processo trasformativo e standardizzato dell'industria, ma nel valore, nei suoi aspetti sociali, e sta ricollocando il valore sull'azione dell'uomo, quindi sull'abilità dell'imprenditore agricolo di provvedere a procurare cibi sani in maniera naturale. Tra l'altro ha detto una cosa interessante, perché da quello che leggo, adesso mi sono persa questa indagine che ho appunto letto la scorsa settimana, ci sono anche molti agricoltori che si stanno convertendo a produzioni di questo tipo, segno evidente appunto che anche loro questa occasione non la vogliono perdere. Vi faccio ascoltare, prima di sentire Paolo Carnemolla, appunto alcune considerazioni dei nostri ascoltatori, perché sono indubbiamente molto interessanti e ci raccontano poi nella realtà che cosa pensano di tutto questo. Eleonora su Twitter ci scrive che ci sono ottimi prodotti ma i prezzi sono comunque esorbitanti, qui è moda, all'estero come tipo in Australia invece è un normale lifestyle e non lucrano gli operatori del settore. Un altro ascoltatore ci scrive al 349-238-6666, biologico e chilometro zero, un'efficace trovata per comprare le stesse cose pagandole il doppio. Un amico di Salvadanaio che è Giulio ci scrive: io produco bio, mangio splendidamente e vendo. Non è che sia caro il bio in sé, ma sono gli elevati costi di gestione che una piccola azienda bio deve affrontare, ma sulla salute non si dovrebbe risparmiare. Salutiamo Giulio e io vorrei considerare tutto questo con Paolo Carnemolla, presidente di Federbio. I dati sono in crescita per quello che riguarda il vostro ambito, il vostro business, diciamo, però appunto qualche pregiudizio, e su questo mi vorrei soffermare anche con lei, da parte dei consumatori rimane. Ma direi di sì, e soprattutto mi riferisco a quell'ascoltatore che ha detto che è lo stesso prodotto che costa il doppio. È un consumatore palesemente non informato. Faccio l'esempio più lampante: probabilmente lui non sa che un pollo o una gallina che produce uova allevato con metodo biologico, secondo regolamenti comunitari che esistono da 20 anni, quindi qui stiamo parlando oltretutto di un sistema con normativa e certificazione obbligatoria, è allevato in maniera totalmente diversa da un pollo o una gallina ovaiola in convenzionale, perché ha uno spazio obbligatorio almeno 4 metri quadri in cui deve razzolare, è curato esclusivamente con metodi naturali, omeopatia, ed è nutrito ovviamente con dei mangimi esclusivamente biologici, e quindi il prodotto che ne esce costa in quel caso probabilmente il doppio, perché i prodotti zootecnici, a parte il latte e il formaggio yogurt, ma tutti gli altri, carne e uova, effettivamente hanno costi molto più alti rispetto al convenzionale, ma perché il prodotto convenzionale costa molto poco, perché sono animali allevati in maniera industriale. Esatto, in batteria, come si sa. Li stiamo vedendo, basta vedere l'influenza aviaria adesso in regione Emilia Romagna, più tutte le altre problematiche connesse all'uso di antibiotici, farmaci in quegli allevamenti. Quelli biologici sono allevati in maniera completamente diversa, con dei costi diversi. Se non si sente però neanche la qualità, la differenza della qualità all'assaggio, mi chiedo anche che tipo di consumatore siamo, se ci sembra tutto uguale, forse non prestiamo neanche la dovuta, a prescindere dalle questioni di salute, ma proprio abbiamo un palato un po' distorto. Ma a volte siamo anche maleducati. Sì. Faccio l'altro esempio che è calzante, perché parliamo dello stesso prodotto. Noi paradossalmente a volte ci arrivano lamentele dei consumatori perché le uova biologiche hanno un tuorlo che è un po' più chiaro, non è così rosso rispetto a quello del convenzionale, ma anche qui è un problema di informazione: non sanno che negli allevamenti convenzionali si usano degli additivi per colorare, per renderlo appunto più vivace dal punto di vista del colore. Carnemolla, ci dobbiamo fermare, ma ci ha già raccontato delle cose molto interessanti. Allora, vorrei subito sgombrare il campo da ogni equivoco: non ho nessun interesse a promuovere il biologico, mi interessa mangiare bene come a tutti quanti, conservare la mia salute, però dobbiamo anche tenere in considerazione il fatto che ci sono molte famiglie che sono in difficoltà dal punto di vista economico e che hanno tutto il diritto di poter acquistare anche questi alimenti. Allora io mi chiedo, adesso svilupperò questo dibattito nella seconda parte del programma, come si possono un po' comunque arginare i prezzi di questi prodotti, contenere un po' di più, dobbiamo industrializzare anche queste produzioni per arginare la crescita del prezzo, comunque il prezzo un po' più alto degli altri prodotti tradizionali. Ci fermiamo adesso perché c'è la nostra prima pausa pubblicitaria e poi ci sono pronti ad intervenire anche Giuliano da Vercelli, Nadia da Genova, e dobbiamo sentire anche Stefano Masini, responsabile ambiente della Coldiretti. Pomodoro, a viva la pappa pappa, che è un capo po lavoro, a viva la pappa pappa, col pomodoro. A patto però che sia naturalmente di origine biologica questo pomodoro, e chiaramente la qualità della pappa chissà quanto potrebbe essere alta. Comunque, insomma, questa canzone con Rita Pavone anche oggi per introdurre il tema che affrontiamo a Salvadanaio. Parliamo del consumo da parte delle famiglie italiane di alimenti di carattere biologico, e quindi quanto sta aumentando questo consumo rispetto ai prodotti, diciamo, di produzione tradizionale. E perché abbiamo oggi parlato di questo argomento? Perché ci ha dato lo spunto un esperimento che sta partendo, condotto dalla Università Bocconi di Milano, in particolar modo da parte del Bio Management Lab, coordinato dal professor Vitaliano Fiorillo, che per qualche settimana monitorerà le abitudini di spesa e consumo di 3 famiglie italiane, particolarmente orientate al consumo appunto di questi prodotti, per capire quanto spenderanno, naturalmente che scelte faranno e se ne saranno soddisfatte. Professor Fiorillo, torno un attimo da lei, Università Bocconi, perché c'è un ascoltatore tra i tantissimi che ci stanno scrivendo al 349-238-6666 che dice: ma questi della Bocconi lo sanno che la gente lavora e non ha tempo per fare il giro dei mercati? Le leggo questo non per indispettirla, no, certo, ma siccome per comprare un telefonino facciamo il giro delle sette chiese, io mi chiedo per quale motivo per alimentarci adeguatamente non si debbano fare i giri di tanti, anche magari mercati rionali, piuttosto che poi c'è il sabato che ci dà anche, se vogliamo, l'opportunità di fare queste scelte. Ma mi chiedo appunto che cosa faranno queste famiglie che sono al centro del vostro esperimento. Ci racconta un po' concretamente come le monitorerete? Noi abbiamo predisposto una semplice tabella per la raccolta dei consumi e delle abitudini alimentari, in un certo senso. Quindi loro per un mese dovranno monitorare ogni volta che acquistano un qualsiasi tipo di alimento, prodotto bio in generale o non bio, insomma, dovranno monitorarlo segnando, spuntando sulla nostra tabella le quantità, il canale di vendita, le modalità con cui il prodotto è stato consegnato, per esempio chi si rivolge alla consegna a domicilio, e i luoghi dove viene consumato, anche quindi anche quando non vado ad acquistare, ma per esempio mangio in mensa cibo biologico. Questo non perché vogliamo capire qual è il mix per canale di vendita, non solo, anche perché su questo comunque ci sono già dati raccolti da altri importanti istituti. Quello che vogliamo proprio capire noi è se in realtà accorciando la filiera, se aumentando l'aliquota di prodotti comprati in posti diversi dal supermercato, come i mercatini, come diceva lei, piuttosto che la vendita diretta in azienda, riusciamo a mantenere uno scontrino di spesa medio, ecco, paragonabile a quello tradizionale. Quindi l'obiettivo è anche poi alla fine monitorare la spesa, oltre che la qualità della spesa, anche certo, proprio come dire la cifra, perché sì, è importante. Sì, noi alla fine siamo un'università che si occupa di economia. Esattamente, non siete appunto la normale di Pisa o altro. Allora, ci piacerebbe adesso sentire un po' dalla viva voce degli ascoltatori cosa ne pensano, poi rifaccio un giro anche con gli altri ospiti. Vi ricordo che con noi questa mattina c'è Tessa Gelisio, opinion leader di questo esperimento, e poi il presidente di Federbio, Paolo Carnemolle, ci ha raggiunto anche, innanzi ne approfitto per salutarlo, Stefano Masini, responsabile ambiente della Coldiretti. Buongiorno Masini. Buongiorno. Le faccio sentire un paio di ascoltatori e poi sento anche la sua su questo argomento. Sentiamo Nadia da Genova, che saluto. Nadia, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Volevo intervenire parlando soprattutto in riferimento a un supermercato, una catena che si trova anche vicino a casa mia, per smentire un po' il fatto che ci siano sempre prodotti di nicchia costosi. Io mi servo da questo supermercato soprattutto per quanto riguarda l'acquisto di latticini, burro, uova che trovo nella serie, diciamo, dei prodotti biologici, così come biscotti o altre merendine. Questo supermercato, Nadia, si rifornisce evidentemente da produttori del posto vicino a lei? Ma non lo so, perché è una catena che diciamo, sono comunque prodotti italiani, questo è ovvio. È una catena che è presente soprattutto in Liguria. E devo dire, per esempio, non so, un litro di latte biologico costa 1,29. E quindi, diciamo, anzi, forse meno. Sì, è anche molto, molto più basso rispetto al latte fresco di altre centrali. Quindi lei non ci sta, appunto, non ci sta al pregiudizio che viene spesso indicato quando si parla di questo tema, l'associazione, ecco, prezzo biologico e prezzo alto. Magari ortaggi freschi, diciamo, prodotti di questo genere magari possono essere più cari, però altri prodotti no, quindi perché non approfittarne, insomma. Grazie Nadia. Sentiamo Giuliano da Vercelli. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie, ci dica. Io sono intestatario di partita IVA, ho tentato di farmi fare le certificazioni ma mi sono allontanato per il costo troppo impegnativo dell'operazione. Voglio però descrivere due aneddoti particolarmente veloci. Vercelli ha una zona particolarmente alta verso il Monte Rosa dove si riesce a fare un po' di miele e sono stati trovati dei campioni, analizzati dei campioni di miele che poi è stato fatto riferimento che arrivavano dal sud-est asiatico e dal nostro est Europa, certificati per bio da aziende italiane, e c'erano dentro un prodotto, i residui di un prodotto che era un acaricida per la varroa, che è un acaro che sta attaccando, certo, negli ultimi 20 anni i nostri alveari. ma ho detto che sono di Vercelli e materialmente l'intestazione è prodotta sul riso, la partita IVA è destinata sul riso. Ci siamo visti dare del biologico a determinati prodotti, concimi, fertilizzanti, che non sono tali perché sono fanghi di depuratore, e materialmente tutti sanno che nei fanghi di depuratore c'è un quantitativo di metalli pesanti stratosferico. Materialmente 6 anni fa, poco più, quando c'è stato uno di quelli cosiddetti attacchi alla diligenza, dei furboni hanno fatto passare i fanghi di depuratore per un ambientante organico certificato bio. Giuliano, guardi, lei mi sta descrivendo una situazione della quale io comprendo poco. Quello che ho capito è che lei si è imbattuto appunto evidentemente in operatori che si identificavano, cioè sostenevano di essere del settore, invece avevamo a che fare, mi pare, con dei criminali a dir poco. Detto questo, Giuliano, grazie per la sua testimonianza. Vado subito a Stefano Masini, che sentendo tutto questo sarà anche balzato sulla sedia, perché poi a fronte chiaramente di persone irresponsabili che mettono anche sul mercato, riuscendo anche a farla franca nelle normative, in tutte le attività di accertamento e controllo, appunto mettono sul mercato prodotti che poi sponsorizzano e descrivono come biologici, accanto a questi però ci sono invece tutti coloro che si comportano in maniera molto corretta sul mercato, al punto che stanno crescendo anche tanto in Italia. E proprio Coldiretti qualche giorno fa ha diffuso un suo monitoraggio appunto su questo. L'Italia è prima in Europa come numero di aziende biologiche, no? Sì, anche in questo settore dell'agricoltura abbiamo un primato, il numero degli operatori dedicati al metodo biologico di produzione, quasi 50.000 addetti in crescita, che occupano un territorio superiore al 1 milione di ettari. L'Italia annovera tra i suoi dati qualificanti dell'agricoltura dunque anche l'adesione al metodo biologico, che trova un riscontro anche qui con una percentuale positiva nonostante la crisi di preferenza negli acquisti dei consumatori. Chiaramente occorre valutare i valori di fondo che motivano un acquisto, che debbo però sottolineare necessariamente a un prezzo diverso. La costruzione del valore commerciale di un prodotto è un'operazione complessa, sicuramente la ricerca aiuta, ma è chiaro che l'adesione al metodo biologico implica dei costi amministrativi di certificazione e soprattutto un cambiamento nelle modalità. Ma quanto appunto è giustificato questo ricarico, diciamo, in modo tale che anche il consumatore si sappia comportare davanti al banco del supermercato che appunto propone prodotti di questo tipo? In media in modo empirico noi riteniamo che questo valore possa oscillare tra un 20 e 30%, ma non può essere sicuramente inferiore al prezzo di un prodotto convenzionale. Certo, incide molto il canale distributivo, cioè, litro di latte, per fare l'esempio della signora, venduto in un distributore automatico, e cioè gestito da un agricoltore, ha un prezzo di un euro ed è un latte fresco, chiaramente che sconta tutte le caratteristiche di sicurezza e di qualità, anche di provenienza territoriale, a chilometro zero, sicuramente inferiore a quello del supermercato, dove tutti i prodotti arrivano artificialmente. Certo, e poi chiaramente bisogna però spostarsi, non è che il contadino ce lo può portare a casa. Esatto, però dobbiamo anche tener conto del fatto che prodotti biologici, magari latte ottenuto con materie prime provenienti dall'estero, dalla Lituania, dalla Polonia, dove il latte costa meno, magari prodotto con metodi biologici, sconta una distanza che probabilmente sul piano almeno ambientale rende questo prodotto di minor interesse sul piano valoriale, cioè dell'impatto sul clima e sull'eventuale inquinamento derivante da trasporto. Chiarissimo, ci dobbiamo fermare, Masini, perché siamo di nuovo alla pausa pubblicitaria e poi ci sono tanti ascoltatori veramente per accontentare tutti in tutte le osservazioni che stanno facendo. Bisognerebbe fare una trasmissione di 3 ore e naturalmente c'è chi mi contesta già il paragone fatto con l'acquisto del telefonino, che se ne compra uno ogni anno, una volta ogni 2 anni, invece il cibo tutti i giorni. E vabbè, però comunque ci perdiamo tempo e non si capisce per quale motivo, per il cibo che si mette in tavola e deve essere consumato anche magari con i nostri bambini, non si debba fare un po' di attenzione alla qualità. E poi ci sono tanti ascoltatori che invece contestano le modalità appunto di produzione, non si può avere la certezza che tutto sia certificato, c'è il caso appunto anche segnalato dall'ascoltatore di prima del miele, come dire, contaminato, ma sappiamo bene anche che nel nostro paese e sono state denunciate più volte, ci sono filiere assurde, ci sono i pomodori cinesi, ci sono le mozzarelle con la cagliata tedesca, ci sono tante situazioni. Il tema è come fare in modo che il consumatore sia totalmente consapevole di quello che acquista. Ci siamo modernizzati anche con i Blair adesso, e allora ritorniamo al tema del consumo biologico, l'alimentazione di carattere biologico. Abbiamo preso a spunto questo esperimento che farà l'Università Bocconi di Milano, ma vi abbiamo scatenato in ogni modo. Va bene, allora lo riconosco, il paragone con l'acquisto del telefonino non era calzante. Tessa Gelisio, però mamma mia come si offendono i miei ascoltatori. È un argomento sempre complesso quello, infatti, del biologico. Allora io, guarda, vorrei leggerti le decine di messaggi che ci stanno arrivando, ma non faccio in tempo. Però insomma la sintesi un po' delle perplessità le hai sentite, le riscontri anche tu nella tua attività appunto di divulgatrice su questi temi? Assolutamente, sono i classici argomenti che nascono quando si parla di biologico. Io però volevo dare innanzitutto ragione alla signora Nadia, perché sempre nelle mie incursioni al supermercato Non ti dico in quanti contestano appunto la tua scelta di ieri di comprare a quei prezzi la zucchina e la melanzana, però tu hai fatto anche un esperimento di carattere giornalistico. Ma io sto facendo proprio un esperimento, vedendo i costi del biologico nel supermercato e quelli direttamente dal produttore, e sto controllando anche la durata, perché il mio esperimento è proprio sulla durata, perché ho notato che acquistando direttamente dal produttore si diminuisce anche il tempo che il prodotto si deteriora, si deperisce, per cui durano tendenzialmente molto più di più, perché non sono state in cielo e frigorifero, non hanno viaggiato per mezza Italia, quindi sto valutando quanto dura uno e quanto dura l'altro. Comunque, ritornando alla signora Nadia, lei ha perfettamente ragione, perché le uova biologiche in un supermercato qui a Milano, ma non solo, costano meno di uova di marche. È la marca che incide tantissimo. Il latte biologico, anche quello, costa meno di una marca di latte famosa. La pasta biologica costa meno della maggior parte di paste famose, uguale per i pelati. Per cui attenzione al costo. Non è detto che il biologico costi di più al supermercato. Poi, sempre riguardo al costo del biologico, secondo me non è il biologico che costa troppo al limite, sono gli altri cibi che costano troppo poco, perché i danni ambientali e sociali della coltivazione convenzionale vengono esternalizzati, cioè l'inquinamento delle falde acquifere che fa l'agricoltura tra virgolette tradizionale, convenzionale, non viene incorporato nel costo del prodotto, ma viene pagato dalla società. Il biologico ha minore impatto ambientale, costa un pochino di più, ma è l'altro prodotto che costa troppo poco, perché tanti costi sociali non vengono inclusi nel prezzo. Non vengono scaricati, certo, sul consumatore finale. E comunque può organizzarsi. Ti faccio l'esempio. Io quando la mia famiglia è toscana, quando vado in Toscana io vado a comprare la carne chianina biologica direttamente dai produttori. Non esagerare sotto, perché sono quasi le 13 e fra un po' andiamo a pranzo, c'ho già la saliva che mi sta scendendo dalla bocca. Cioè, quindi io carne e pesce me le compro direttamente dai produttori, faccio lo stock, risparmio, me li congelo e per 6 mesi sono a posto. Guarda, ti dico cosa faccio io. Io sono marchigiana e invece ho dei familiari appunto che hanno la campagna. Quando vado riesco a farmi una bella scorta di frutta e verdura e appunto la posso tenere in frigorifero un po' più a lungo di quella che invece compro tradizionalmente appunto al supermercato, perché invece sono una che ha poco tempo per andare dai farmer market, a parte per il miele e per altre cose, e quindi già lì la differenza si vede. Allora vi propongo, Tessa, devo interromperti solo perché abbiamo 5 minuti di tempo, 2 ascoltatori, devo far fare anche una chiusura finale agli altri ospiti. Cristina da Parma, rapidissima, buongiorno. Buongiorno, io lei sono cucina Cristina per gli altri, sì. Sono una cuoca a domicilio e cucino esclusivamente biologico. Ora cosa sto facendo? Sto andando in giro per le aziende biologiche, perché cucino un po' in tutta Italia con la mia piccola attività, e per trasmettere soprattutto ai miei clienti che quello che mangiano sulle tavole è comprato direttamente vicino a casa loro, a chilometro zero, ed è comprato vicino alle loro case. Quanto incide questo, Cristina, poi nella remunerazione che lei si deve far riconoscere per questo suo lavoro? Le fa spendere un po' di più le famiglie rispetto alla spesa tradizionale? No, perché io vivo, sono di Parma, però se vado a cucinare a Vicenza non posso partire con la spesa da Parma. Certo, però si informa delle aziende presso le quali si può rifornire sul posto. Quindi. Infatti io ora per un anno sono in giro alla ricerca di aziende piccole da visitare, da vedere se effettivamente il prodotto è biologico, perché voglio vedere con il mio occhio se è vero, se il prodotto è buono, e quando vado a cucinare spiego anche dove può l'azienda andare a comprare insomma, la roba. Bisogna muoversi con un po' di buon senso, un po' di buona volontà, come per tutte le cose, dico io, per cui qua non è che dobbiamo poi rivoluzionare così tanto le nostre abitudini di consumo. Cristina, grazie, io le adoro, presto naturalmente la inviteremo anche noi a cucinare a casa nostra. Sento Massimo dalla provincia di Milano. Massimo, rapido anche a lei, grazie. In questo caso sceglie il gruppo di acquisto pur di fare acquisti di qualità. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sì, sono qualche anno oramai che faccio parte di un gruppo d'acquisto e all'inizio sembrava una cosa improponibile a livello di gestione, di ordini, di ritiro, di smistamento, però le assicuro che oramai il supermercato non... Neanche ci vuole più entrare per comprare, non lo so, proprio uno shampoo. No, allora, diciamo che si estende un po' a tutto, in gran parte il fresco, ortaggi, verdura, frutta, ma si è arrivati anche ai detersivi piuttosto sì, che... Sì. Dei gas abbiamo parlato spesso anche a Salvadanaio, Massimo, comunque grazie anche a lei per la sua testimonianza, non solo prodotti appunto alimentari, ma si può veramente oggi acquistare di tutto attraverso i gruppi di persone. Allora, Paolo Carnemolla, presidente di Federbio, l'ho lasciata un po' lì sedimentare per qualche minuto, così ha messo in canna nel suo fucile un po' più di cartucce. Stiamo andando verso la chiusura, rispetto alle perplessità che ancora ci sono tra molta parte della collettività, appunto, che cosa può rispondere l'industria di settore, perché poi non possiamo definirla diversamente. Certamente no, per quanto riguarda le cose che riguardano i residui, le frodi, ovviamente c'è un sistema di certificazione, ci sono le autorità pubbliche, i casi segnalati sono gestiti e possono essere gestiti, e abbiamo presentato recentemente i dati, ci sono qualcosa come più di 6.000 analisi tutti gli anni sulle quasi 50.000 aziende, oltre quasi 70.000 visite ispettive, c'è un'attività importante, quindi chi conosce situazioni come quelle che sono state dette deve denunciare. Ci dica, entrando comunque, ammettendo la modalità tradizionale di fare la spesa, perché tanto quasi tutti andiamo al supermercato perché abbiamo poco tempo, prima di cambiare completamente le nostre abitudini, vado al supermercato, mi dirigo nel reparto dove ci dicono appunto che vendono biologico, come faccio ad essere sicura che quei prodotti siano proprio di questa natura? È molto semplice, perché adesso è obbligatorio l'utilizzo del logo europeo, che è un rettangolo verde con una fogliolina bianca stilizzata. Ottimo. Con le stelline, e poi lì sotto ci sono i riferimenti all'organismo di certificazione e al Ministero delle Politiche Agricole che li autorizza. Per il resto, è stato detto prima, ci sono anche, oltre ai gruppi di acquisto, moderni sistemi di vendita. In Emilia-Romagna, per esempio, è possibile acquistare carne biologica via internet. Addirittura. Che viene portata a casa. Sì, viene quella portata a casa. Quella addirittura un'evoluzione pazzesca. Viene portata a casa e costa, portata a casa, quello che costa un prodotto, una carne convenzionale al supermercato. Quindi guardi, qui addirittura si risparmia anche di andare a fare la spesa al supermercato. Mi viene in mente mia mamma, che se le suggerissi questa modalità mi guarderebbe come una pazza, perché lei va dallo stesso macellaio da oltre 40 anni, che è la mia età, e sono cresciuta con quella carne là, per cui veramente qui stiamo parlando di una rivoluzione radicale, ma che sarà molto importante per le nostre tasche. Grazie anche a Paolo Carnemolla. Concludo solamente col professor Fiorillo in 5 secondi. Quando avremo i risultati di questo esperimento della Bocconi? Intorno alla fine di novembre, insieme ai risultati delle altre attività invece che svolgeremo sulle aziende per portare un po' di management. Ottimo. Nel biologico. Tessa Gelisi, ci risentiamo a fine novembre? Assolutamente. Quando vuoi abbiamo gli aggiornamenti su come stanno andando la spesa delle nostre famiglie. Molto bene, grazie a tutti per essere stati con noi. Salvadanaio termina qua, buona giornata.